Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Guarda quanto è lento quel ragazzo. E già si è svento te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto uno scolatore di fritto, c'avevo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero, dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Non se muovemo mai, una volta che se muovemo se poteva andare Anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Già te l'ho detto, il commendator Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare. Sì, tu mo mi incanti. Di' piuttosto che ci vuoi andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Te la ricordi, Sansonna, com'era bella una volta? Me lo ricordo. Ma quant'è che non la vedi? La spiaggia, dici? Quell'acqua pulita. Fiumicino, sì, Fiumicino oggi il mare è marrone, devi fare lotte col macete, col colibatterio se vuoi fare il bagno. Ma era marrone anche allora, ai tempi. Però la gente era felice, senti, erano momenti in cui quella che oggi si chiama vacanza, dove vai in vacanza? Ma magari oggi è un weekend allungato, non è più una vacanza, la vacanza da coatto, da poveraccio. Una volta era la villeggiatura era lunga, prevedeva un trasloco totale, una transumanza familiare. E poi c'erano queste puntate domenicali, come appunto Aveninchi e Aldo Fabrizi, che si andava via mezza giornata, però ci si smobilitava completamente. Sì, si partiva dai trenini di Ostia Lido alla Piramide per andare a portare poi i panini con le melanzane, appunto queste paste al forno e questi meloni da immergere nel fresco delle bagnasciughe per mangiarli poi sotto l'ombrellone. Io vengo da una tradizione pugliese e barese di gente che invece mangia permanentemente sugli scogli dalle 11 di mattina fino alle 7 di sera, un pranzo eterno che in balia e in barba le congestioni possibili del postprandium, che non avverrà mai perché si mangia su cozze e patate. Cosa si porta? Patate, riso, patate e cozze, paste al forno, cose sane, cose leggere, anche adatte a un rapido bagno e buttarsi subito. Si prendono i riccioli per lì, sì, si divora tutto ciò che offre il mare, appunto. È molto cambiata la percezione del tempo libero da impiegare in luoghi ameni in cui occorre ritemprarsi. Oggi mediamente le persone non hanno più questa sorta di scansione liturgica dell'anno, per cui a un certo punto finisce l'anno lavorativo e si andrà dove? Al mare o ai monti? O magari in qualche luogo salobre, in campagna, alle terme, se qualcuno aveva problemi prostatici o qualcosa di diverso, quello che potrebbe accadere naturalmente anche a te da un momento all'altro. Ma è già accaduto. Ecco, invece ci fu un momento in cui l'Italia, uscendo da un periodo tristissimo in cui le vacanze erano quelle del regime, i bambini andavano in colonia, i più grandi andavano nei luoghi in che littorialmente venivano indicati, furono le prime vere vacanze degli italiani, devo dire onestamente, venne l'idea che tutti potessero andare in vacanza e quindi cominciò a entrare nella rappresentazione delle nostre magagne, dei nostri splendori, delle nostre glorie, anche la rappresentazione di noi mutande con la ciambella salvagente, che l'italiano mediamente non sapeva nuotare, anche se era di città di mare, nuotava la canina, quella sorta di nuotata che nulla aveva se non uno stratagemma di sopravvivenza. E quindi gli italiani come sono raccontati dalla commedia italiana nel momento della vacanza? Sono appunto raccontati come con la goffaggine che dici tu, appunto, deportati in queste transumanze eterne, molti di loro, questi padri di famiglia, che mettono, come faceva mio nonno, il gambaletto, cioè lo stinco, in acqua e rimangono a fissare l'infinito, leopardianamente. Ma con calzoni rimboccati o con... No, con costumi arrangiati. Franco Citti raccontava che si faceva, appunto, andando a Fiumicino da piccolo, come Fabrizi, il costume col giornale, perché appunto avvolgendo un giornale da ragazzino intorno al corpo. Diciamo che negli anni 50 il costume da bagno era un accessorio, si faceva con i ferri a caso, all'uncinetta di lana. Naturalmente come entravi in acqua ti arrivava al ginocchio. La cosa più facile era vedere il testicolo fuoriuscente dal costume del bambino, perché avevano quei triangolini stretti invece orrendi, castratori. Una generazione di bambini è stata castrata dai costumini in fibra sinteticissima che allora andavano. Era l'alternativa, era quello di lana e pizzicava. Immortalati appunto in casotto di Sergio Citti quando Placido appunto a qualcosa in fuorigioco. Ecco Placido che fa la corte alla figlia di Paolo Stoppa, che in realtà era incinta di un altro, a questi costumi triangolari terribili che allora andavano molto di voga, e Paolo Stoppa gli fa notare in realtà gli usciva una palla dal costume, come accadeva, era spessissimo normale che succedesse questo. Ma voi sempre in costume dovreste stare. Nando, guarda, le più belle di tutti i mari del mondo. Aspettateci qua, famo in un furmine. Belle. Fanno schifo, fanno. Però Cappuccetto Rosso si serva. Infatti Cappuccetto Rosso me lo vivo io. No, tu te vi il lupo. No, no, il lupo devo vivere. Guarda come rimorchiate io. E beh, fammi la conta. Allora dai, fammi la conta. Per te? E. Tre a me. Cappuccetto Rosso me lo vivo io. Ma quale tre a te? Cappuccetto Rosso me lo vivo io. Ma perché? Fammo peccato di sera, fammo tutte e due. Io mi faccio Cappuccetto Rosso e te la passo a te. E tu te fai il lupo. Poi tu il lupo me lo dai a me e io a te te do Cappuccetto Rosso. Dopo tu mi ridai Cappuccetto Rosso e io te ridò il lupo a te. Ma io il lupo non lo ho io. No, poi io te ridò Cappuccetto Rosso. Ecco, qui passavano tutte le tensioni, tutte le uscite dalla regola e tutte le conferme di ogni regola in un'unica location, un casotto. Sì, appunto, si tratta di una domenica sul litorale romano. Questi casotti erano degli spogliatoi comuni in cui tutti i bagnanti abusivi, naturalmente, sì, che stavano appunto sul territorio, e tutti i bagnanti potevano usarli, e quindi ci si incrociava. Sergio Citti lo elegge come luogo in cui accade tutto. Il fuori non si vede mai, si vede solo il dentro, e queste vite che palpitano un po' unte, un po' faticose, un po' disperate. Qui ci sono Franco Citti, suo fratello, e Proietti, che hanno rimediato due commesse che non, tra l'altro se la tirano anche un po', non si concedono, e quindi c'è questa dimensione di possibilità domenicale. Le scene tristissime, a un certo punto mentre si spogliano le ragazze guardano in tasca dei pantaloni dei ragazzi per vedere il potere d'acquisto, esatto. E si accorgono che uno aveva dei preservativi in tasca. Dice: ma tu gliela dai? Dice: ma no, che gliela do, sei matta, ci facciamo invitare a pranzo e basta. E i due ragazzi hanno i piedi zozzi perché hanno lerci, se hanno le scarpe hanno i piedi neri. Dice: allora per non farci vedere facciamo, io ti do una botta sulla spalla. E gli dico: ah, ti corro dietro, ci buttiamo in acqua e ci laviamo i piedi. Ma scendo, prende una tramvata sul trave e poi si farà avanti, tutta un'altra questione. È un'umanità piena di afrore quella che racconta Sergio Citti, appunto l'afrore dello spogliatoio, è una dimensione non lussuosa di vacanza, che non è un sogno, ma è la miseria del quotidiano replicata all'interno anche della vacanza. Che verrebbe da pensare, dall'opulenza delle nostre vite, ma sarebbe meglio starsene a casa, ma tu pensa che situazioni lasciano perché quello sia considerato un luogo ameno, un orrendo casotto di legno pieno di puzza di piedi, di puzza di fritto e di gentaccia. Io devo dire la verità, c'è stato un luogo continuativo di mestizia delle mie vacanze, che è Tirrenia. Tirrenia sarebbe praticamente la spiaggia dei toscani che non si possono permettere di meglio, ma da sempre è stata così. Cioè, se il pisano come sono io, che avesse avuto un po' di quattrini, portava la gente in villeggiatura Marina di Pisa, Tirrenia era già un gradino sotto, anche perché come tuttora oggi il posto di mescolanza tra pisani della Suburra e i livornesi, quindi creando un mélange del peggiore orrido provinciale. Questo è un ascoltatore che in una precedente trasmissione ci lasciava la sua testimonianza per dimostrare la similitudine molte volte tra gli universi raccontati alla commedia italiana e poi la reale esperienza personale di quelli che improvvisamente vedono spalancarsi dei vortici di memoria proprio suscitati da quella che sembra soltanto una fiction, ma in realtà è una rappresentazione molto concreta. No, e infatti per esempio i casotti c'erano anche nel Poetto, nella gloriosa spiaggia cagliaritana. Erano un po' delle casette colorate all'abbraccio di ferro in cui si consumavano pranzi luculiani, chiusi per motivi sanitari, perché appunto c'era tutta la catena alimentare, l'acquisizione del cibo e l'espulsione, tutto accadeva in queste famiglie sterminate, patriarcali, che vivevano, si traslocavano anche per lunga parte, per metà dell'anno, per tutta la stagione balneare, quindi rivivevano la dimensione dei paesi ricollocata sulla spiaggia. Diciamo che la versione leggermente più ufficiale del casotto, che sono le cabine della Riviera Romagnola, erano di tutto, erano anche l'alcova improvvisata e il teatro di tutti i peggiori adulteri, tutte le uscite dalla regola. Il marito medio italiano che mandava la famiglia al mare, naturalmente poi lui si spupazzava le colleghe nella città assolata, ma in realtà anche le mogli, le sorelle, le figlie, le fidanzate che andavano in riviera avevano questa sorta di uscita dal mondo, erano Stargate. La cabina agli stabilimenti era lo Stargate in cui dall'immagine edulcorata e tradizionale della famiglia si poteva uscire e si rientrava velocemente. Quando usciva dalla cabina rivestiti, era tutto visto, tutto passato, era stato tutto. Ecco, io ricordo proprio dall'infanzia, no? Io sono telefono da Modena, ma sono un emigrato sardo, allora del Succisiglesiente. All'epoca nel lungomare di Gonnesa, Fontanamare, in queste zone della Sardegna si costruivano dei casotti, suppongo fossero anche abusivi all'epoca,

che nel momento della vacanza, nella nudità della spiaggia, appaiono in tutta la loro esattezza, in tutta la loro pittoricità. C'è tutto un affresco umano nudo della borghesia in vacanza. Tu che conosci bene, diciamo, tutta la filmografia italiana di quel periodo, non è anche vero e giusto affermare che assieme al boom economico, al benessere, ai gadget per vivere meglio, anche la trasgressione era diventata qualcosa che si potevano permettere? Cioè tutte le macchiette di Alberto Sordi marito, Alberto Sordi libertino, sono cose che fanno soltanto sorridere, veramente sorridere. Però sembra quasi che ci sia un cliché che bisognava comunque ripercuotere, faccia parte, diciamo, dell'acquisito benessere. Un divertimento a cui bisognava aderire, che era fatica, cioè bisognava essere adulteri, bisognava vivere questa dimensione dello slancio, della uscita dal matrimonio, perché lo imponeva appunto l'ebbrezza un po' stordente del boom. Era un conformismo. Anche il Gasman del sorpasso. Certo. Bisognava essere sciupa femmina a tutti i costi, anche con la cameriera, con chiunque ti capitava, qualunque donna respirasse, come si diceva una volta, la 9,90 si respira e canta. Eh sì, era l'ebbrezza del boom, bisognava essere felici a tutti i costi, essere corsari, aderire a questa estasi che poi in realtà si è rivelata amara e illusoria. Oggi siamo tutti eccitati perché la scuola ha finalmente preso un'iniziativa gagliarda, un viaggio di 15 giorni in America. Ragazzi, ma vi rendete conto? Fra 2 giorni a quest'ora siamo a New York, a fare lo struscio sulla Quinta Strada. Sogno i concerti al Madison Square Garden, sogno il country blues, sogno California. Io invece sogno le camicie coi bottoncini dei Brooks Brothers. Sono meravigliose, aderiscono al collo in maniera quasi imbarazzante. No, ragazzi, io sono sincero. A me dell'America interessa soprattutto il lato umano. Arte, basse, magre, negre, basta che respirano, colpisco a raffica come i Gremlins. Faccio un'apocalisse. Sto arrivando, Magica America! Ecco, diciamo, questa è un'altra fase, un altro decennio in cui il sogno americano, senti, era ristretto in dei cliché che oggi non appartengono più assolutamente a nessun immaginario, un po' nei cliché mediati dagli inizi della TV commerciale, che dava dei segni attraverso le soap, attraverso le dynasty, una visione dell'America. Oggi non esiste nulla di simile, però è giusto ricordarlo. Sì, questi sono i Vanzina che raccontano questa loro terribile truppa in vacanza, in gita scolastica, in realtà accompagnati da Don Burro, con prete. Don Burro, il frusinate Christian De Sica, forse in uno dei suoi ruoli migliori, che porta il già cinquantenne Jerry Calà, che fa lo studente, li porta nella Valle della Morte, insomma, vivono questa dimensione, come dicevi tu, da cliché di un'America sognata, sempre meta appunto di irraggiungibili sogni legati poi al sesso facile e all'ampiezza e a tutti i cliché americani che si possono immaginare. Però questa è un'altra collocazione della vacanza, non è più legata al concetto di gita scolastica. Mi dai una lettura contemporanea dello stesso concetto? Chi secondo te oggi sta immagazzinando e congelando dei sintomi concreti della contemporaneità che, se saremo mai vivi e non rincoglioniti, fra 10 anni noi rileggeremo nella stessa chiave in cui leggiamo oggi il passato? Io penso che Garrone, Sorrentino, la Rohrwacher anche in parte stiano raccontando questo, in parte attraverso molti cliché. Anche Virzì li congela, lavorando moltissimo sul cliché in maniera forse volontaria o involontaria, non lo so quanto, di sicuro mutuando, però almeno sussumendoli, concentrandoli tutti insieme, cioè tutta una serie di cliché che però servono di macchiette, che servono poi a raccontare un'umanità, poi a riguardarla nel passato. Diciamo, oggi i supporti per confermare un cliché sono cosmici, alla portata di tutti. Nelle epoche passate, anni 60, 70, anche i primi anni 80, erano limitati, la gente guardava la televisione e leggiucchiava qualche giornale. Oggi il cliché è confermato dal fatto che la condivisione è il principio primo che rende cliché qualunque cosa, qualunque espressione. Ma dico io, con 8 milioni di persone che ci stanno a Rio, ma proprio quando dovevano venire? E senza soldi, senza passaporto. Per fortuna che avevamo l'indirizzo di questa signora gentile. Non lo so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona cozza. Ha fatto una crasi? Crasi? Come questo è scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebulle. Io so che questo pezzo tu lo detesti e per me ormai è una scrittura in lettere immarcescibili della nostra storia. Anche in De Sica e il suo compare che vanno in Brasile e danno questa lettura della crasi, trovo comunque una perfetta rappresentazione della contemporaneità. Sì, soprattutto nel Brasile luttuoso di questi giorni dopo la sconfitta con la Germania, che ha di nuovo arato appunto il territorio. No, certo, è bellissimo, un momento linguistico alla Gadda che mi commuove sempre, di cui ti ringrazio. Elemento giustificatorio anche del lutto nazionale che abbiamo letto ieri sui giornali, cui ho dato corpo nella trasmissione precedente. A domani.